La sera, amici, feste, veglione. Mi sveglio la mattina che sembro un coglione. La sveglia che suona e mi devasta. Non voglio alzarmi, la spengo e grido basta. Mi devo muovere, non faccio manco colazione. Poi si lamentano che scrocco. Scusate, ho la fame di un leone. Io che mi mangerei anche il prof, magari taci per un po'. E non sclera quando tipo Balzoia i compiti dico no. Io quando andavo a scuola da bambino mi divertivo, già all'epoca facevo casino. Era tutto semplice, zero fatiche. Calcio con gli amici e provarci con le tipe. Ormai son cresciuto e non me ne fotte niente. Non mi servono matematiche e le scienze. Devono capirlo, ormai sono adolescente. Ora voglio qualcosa che mi serva per la vita. Tipo fare esperienze in gita. Ce ne sbattiamo delle repliche del professore. No, non ci interessano le sue parole. Ci vogliono ammessare come cani e poi si fanno scappare i geni dalle mani. Ogni giorno 1, 2, 3, 4, 5 ore. Il numero è sempre maggiore. Ma ci sono anche rientri. O taglio 7 ore. Fra ti suicidi se entri. ITS Cipeano. Ora è la mia scuola. Cade a pezzi è proprio normale. Non ce ne manca una sola. Quello di scienze ha sempre mal di testa. Poi con gli alunni l'ascensore le fa festa. Pedofila, ti diverti con poco. Per noi la scuola è fatica. Per te è tutto in gioco. Poi c'è Hitler, versione femminile. Vuoi discutere? Beh, puoi già morire. Prof che parlano solo dialetto, niente educazione fisica, perché cade l'acqua dal tetto. Tante fatiche, a soli 16 anni, dicono che l'età peggiore. Ovvio, siamo pieni di danni. Noi tiriamo avanti, ci sentiamo sollevare. Bella raga, la primavera sta per arrivare. Ci prepariamo, dai tutto l'ultimo momento. Finalmente sono salvo, deve essere il nostro commento. Così un gran saluto alla scuola e al professore. Divertiti e fai capire chi è il migliore.